Mike Pompeo in Israele per discutere dell'annessione. Brasile, Bolsonaro contro tutti tranne il Covid. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Benjamin Netanyahu is promising to carry out one of the most controversial acts of his decades in politics, the annexation of illegal Israeli settlements as well as large parts of the Jordan Valley. O Brasil, no dia de ontem, viveu mais momento di perplexidade por parte do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, con me c'è sempre la squadra di tutti i giorni: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi Elisabetta Fusconi in assistenza e in regia ritroviamo Filippo Aureggi. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp per domande e commenti. Lo potete fare anche attraverso i social. Ricordo la pagina Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Se invece amate Twitter, cinguettate pure. I due account sono NessunLuogo24 ovvero Giampaz. Quali sono i due temi nel cuore di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano? Innanzitutto questa visita lampo di Mike Pompeo, segretario di Stato statunitense in Israele. Sul tavolo ci sono vari dossier, su tutti evidentemente l'annessione delle colonie israeliane, quella parte della Valle del Giordano che sia Netanyahu che Gantz da tempo dicono di voler annettere, ma si parlerà anche di Iran naturalmente e di Covid-19. E poi a proposito di Covid-19 andremo in Brasile, perché i numeri che arrivano dall'importante paese sudamericano sono molto sconfortanti a fronte di una politica di fratture politiche che si sono fatte davvero importanti, con un Jair Bolsonaro che sembra scagliarsi contro tutti tranne contro la malattia, e addirittura si è scomodata la prestigiosa rivista scientifica Lancet, che ha definito Bolsonaro un nemico per la lotta al Covid-19. 349-238-6666 e adesso i nostri dossier. Il primo che vi sottopongo ci riporta in Afghanistan, ne abbiamo parlato a lungo proprio ieri. Sono arrivate infatti in tarda serata di ieri le rivendicazioni ufficiali, diciamo così, da parte dello Stato Islamico sui loro canali Telegram rispetto all'attentato suicida durante il funerale a Jalalabad, di cui vi abbiamo dato conto ieri. Sarebbero stati almeno 32 morti e decine i feriti. Poi c'era quell'altro attacco all'ospedale, quel reparto maternità gestito da Medici Senza Frontiere. Sono saliti a 24 i morti in quell'occasione, tra cui anche due neonati, mentre su questo attacco non è ancora chiaro se vi sia l'ISIS. I talebani hanno negato ogni responsabilità. Nel frattempo i negoziati tra Kabul e i talebani continuano ad andare molto molto a rilento, e forse sono ottimista nel definirli così, in realtà si sono sostanzialmente arenati. Due i punti che mi preme sottolineare. Il primo, quel famoso scambio di prigionieri che doveva essere un po' l'acceleratore della normalizzazione, dell'istituzionalizzazione politica dei talebani, sostanzialmente sta facendo acqua da tutte le parti. Da un lato Kabul accusa i talebani di non liberare abbastanza prigionieri, dall'altra parte i talebani, come scriveva in maniera molto lucida oggi Daniele Reneri sul Foglio, con ultimi rapimenti anche a danno di civili hanno ingrossato le fila sostanzialmente delle loro prigioni, così oltre a rilasciare prigionieri rilasciano anche persone prese a caso, sostanzialmente come se si gonfiasse in qualche modo, no? I bilanci dei rapimenti in mano talebana. Da ultimo è arrivata una dichiarazione del presidente afghano Ashraf Ghani, il quale ha dato ordine alle forze armate afghane di passare dalla posizione attendista a quella offensiva contro tutti i gruppi armati. Speriamo di essere smentiti, ma potrebbe essere la fine, il naufragio ormai completo del lungo processo di pace. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, ve ne darò conto tra pochissimo. Prima fatemi dare conto di un'altra notizia che arriva dal Burkina Faso. 8 soldati burkinabè uccisi durante un attacco jihadista a Kankafugul, città del nord, vicino al confine con Niger. La notizia risale solo a lunedì scorso, ma le forze di sicurezza l'hanno diffusa soltanto nelle ultime ore. Lo ricordiamo, del Burkina Faso ormai parliamo molto molto frequentemente. Ci sono innumerevoli attacchi jihadisti, numerose formazioni, fino adesso 850 i morti, questo è il tragico bilancio dal 2015, e quasi 1 milione di sfollati interni. L'altra notizia interessante arriva proprio dal question time del ministro degli esteri Luigi Di Maio alla Camera, che si è detto possibilista quanto alla partecipazione italiana alla missione europea Irini, un contingente di 500 unità, un'unità navale e 3 mezzi aerei, previo accordo delle Camere, e questo sarebbe il contributo da dare da parte dell'Italia alla nuova missione europea Irini, quella che dovrebbe anche andare a rinforzare quell'embargo sulle armi libiche che fino adesso non ha particolarmente funzionato. Sempre oggi l'agenzia Frontex, quella di controllo delle frontiere europee, ha dato notizia di un calo record nel mese di aprile degli attraversamenti irregolari sulle rotte dei migranti. 900 nuovi arrivi, il calo è dell'85% rispetto al mese precedente, è il numero più basso da quando Frontex ha cominciato a raccogliere dati, ed era il 2009. Infine il Libano. E il Libano che fa un passo indietro rispetto alla cosiddetta fase 2 del coronavirus, era iniziata il 4 maggio scorso. Il governo ha infatti decretato ieri la chiusura totale, nuovamente si va in lockdown del paese, entra in vigore questa sera, durerà fino a lunedì sera. Un improvviso rialzo della curva dei contagi giustificherebbe questa nuova mossa da parte dell'esecutivo libanese. Autorevoli ma anche semplici osservatori e giornalisti puntano il dito su una decisione piuttosto bizzarra: un nuovo lockdown che dura solo 4 giorni non dà nemmeno il tempo di sortire i suoi effetti e di valutare quanto appunto sia stata l'efficacia di questo lockdown. Ma lo sappiamo, il Libano in questo momento è in preda a una serie di tensioni fortissime, è il caso di dire che il Covid-19 sia in qualche modo la goccia che sta facendo traboccare il vaso. 349-238-6666 per voi. Adesso è il momento di andare in Israele. Per raccontare la storia di quest'oggi, cioè la visita di Mike Pompeo, segretario di Stato statunitense, sia con Netanyahu sia con Benny Gantz, entrambi evidentemente si incontra, vi faccio sentire quello che diceva Benjamin Netanyahu esattamente un mese fa. Nel giro di qualche mese confido che questo piano possa realizzarsi, che si possa finalmente celebrare un altro momento storico della storia del sionismo. Intanto gli ascoltatori che tentano di assimilare, e certamente non ha torto su alcuni piani, il piano di pace in Afghanistan così come quello in Medio Oriente. Un ascoltatore scrive: sembra che il piano di pace in Afghanistan sarà lungo e difficile tanto quanto quello tra palestinesi e israeliani, ripercorsi storici, così un ascoltatore. E poi qualcun altro: perché definiamo i passaggi in mare irregolari e chi è sopra migranti? Dobbiamo regolarizzare anche gli scafisti? E questa è una delle domande che si fa un ascoltatore, che devo dire non riesco a inquadrare benissimo, credo che sia un appunto lessicale. Un altro torna sulla questione del processo di pace talebani governo afghano. Vuol dire che i Taliban riprenderanno il potere anziché attraverso un processo di pace con l'ennesimo bagno di sangue. Duole dirlo, ma i padroni dell'Afghanistan sono loro. Seguiremo certamente in questi giorni, nelle prossime settimane, quelli che saranno gli sviluppi. Certo, l'Afghanistan che conoscevamo qualche anno fa non c'è più, nemmeno quello di 20 anni fa. Chissà quale forma prenderà questo importantissimo paese che è stato teatro di guerre per procura per tanto, forse troppo tempo. Fatemi andare a Gerusalemme immediatamente con la voce di Nello Del Gatto, che racconta le questioni israelo-palestinese da tempo per Agi. Nello, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno a voi. Allora, è arrivato Mike Pompeo. Ha stretto la mano virtualmente, evidentemente, a Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Com'è stata l'accoglienza? Sai che sono 3 sostanzialmente dossier sul tavolo: Covid-19, minacce iraniane e poi annessione delle colonie nella valle a sud del Giordano. Che accoglienza ha trovato Mike Pompeo? Ma un'ottima accoglienza, in verità i dossier sono quattro, perché sul tavolo c'è anche un dossier un po' più, diciamo, sotterraneo, ma importante, che è quello della Cina. Non a caso Pompeo ha incontrato anche il nuovo ministro degli esteri, quello che da domani sarà il nuovo ministro degli esteri, Gabi Ashkenazi, e anche Saad, perché la Cina sta aumentando sempre più gli interessi in Israele, ha costruito praticamente un terminal al porto di Haifa, dove tra l'altro arrivano anche le navi militari americane. Adesso c'è una gara internazionale per la costruzione di un impianto di desalinizzazione, e una delle due finaliste, diciamo così, alla gara è una città cinese, la di Hong Kong, il gruppo Hutchinson. Quindi insomma questo ha fatto accendere qualche lampadina nel governo americano, insomma, chiedendo agli amici israeliani di stare un po' più attenti, tanto che anche in Italia qualche giorno fa ha chiesto di rivedere questa gara per quanto riguarda la costruzione di questo impianto di desalinizzazione. Sì. Nello Delgato, perdonami, devo interromperti perché la linea non ci sta soccorrendo. Proviamo a richiamarti, vediamo di stabilire un collegamento migliore. Io tra pochissimo tornerò a Gerusalemme con la tua voce, vado invece agli ascoltatori nel frattempo. 349-238-6666. È sconvolgente pensare che la maggior parte delle guerre derivino da motivi religiosi, per la maggior parte dei casi in paesi culturalmente arretrati. Dobbiamo pensare che la religione attecchisce sulle animi elementi dei più ignoranti, così Francesco da Taranto. Ma allora è questione particolarmente complessa e anche delicata. Parlare di arretratezza culturale nei territori israeliani e palestinesi mi sembra eccessivo, così come anche in Afghanistan. Purtroppo quelle fiorenti e secolari culture sono spesso offuscate da quelle che sono dinamiche politiche. E attenzione ai motivi religiosi, mi faccia contestare garbatamente quella che è la sua visione. Sono, a mio modestissimo parere, delle formidabili leve politiche, sono dei pretesti incredibili, lo abbiamo visto in tanti quadranti, non soltanto del Medio Oriente. Mentre recuperiamo la linea con Nello Delgato, intanto vi faccio vedere come con che sentimento hanno accolto una particolare categoria di cittadini israeliani questo arrivo di Mike Pompeo, che potrebbe dare il via definitivo, l'ok, la green light, direbbero gli americani, proprio da parte statunitense, all'annessione di una serie di colonie e territori in Cisgiordania. La voce è quella di Oded Revivi, che è membro dell'associazione Yesha, è sostanzialmente un'organizzazione ombrello che riunisce i consigli municipali degli insediamenti ebraici in Cisgiordania ed è sindaco, fra l'altro, anche proprio dell'insediamento di Efrat. Sentite cosa si aspetta da questa visita di Mike Pompeo in Israele. Mike Pompeo's visit to Israel is just another meeting in a series of meetings which derive. La visita di Mike Pompeo in Israele è un ulteriore incontro all'interno di una serie che deriva dalla solida relazione tra Israele e gli Stati Uniti. Sappiamo per certo che ci sono diversi temi all'ordine del giorno. Le minacce iraniane, la questione del coronavirus e anche la questione dell'applicazione delle leggi israeliane in Giudea e in Samaria. Si tratta di uno degli accordi su cui c'è stato consenso all'interno della coalizione del nuovo governo, che dovrebbe entrare in carica domani. In base a quell'accordo, qualcosa deve succedere a partire dal 1 luglio. L'amministrazione americana ha tutto l'interesse affinché qualcosa si muova, per mostrare ai propri sostenitori le prove del loro supporto a Israele. Quindi mi aspetto che tutti e tre questi argomenti vengano discussi durante questa breve visita del segretario di Stato in Israele. Questa è la voce di Oded Revivi, associazione Yesha, sindaco di Efrat. Sostanzialmente rappresenta in maniera molto molto chiara e anche forte, dato il suo ruolo, la posizione dei coloni. Vi faccio sentire quella che è virtualmente una risposta a questa posizione. Arriva da Yara Awari, senior policy analyst per il think tank Al-Shabaka. Lei è palestinese e evidentemente ha una visione decisamente diversa. A lei abbiamo chiesto se questa visita è il via libera all'annessione dei territori, di parte dei territori, è la sconfitta definitiva della soluzione dei due stati. Sentite. So with regards to Pompeo's visit, many people are speculating indeed that Rispetto alla visita di Pompeo in Israele, molti analisti suppongono giustamente che il segretario di Stato americano faccia visita a Netanyahu per dare il via libera all'annessione della Valle del Giordano. La scusa ufficiale è ovviamente un confronto in relazione al Covid-19 e all'Iran, ma tutti sappiamo che in realtà il tema centrale dell'incontro sarà proprio l'annessione. Siamo anche consapevoli che la decisione finale rispetto all'annessione verrà presa a Washington e non a Tel Aviv. L'amministrazione Trump è stata molto chiara nell'esprimersi a favore del piano di Netanyahu che dovrebbe essere implementato già dopo il 1° di luglio. Per coloro che pensano che l'annessione della Valle del Giordano metta la parola fine alla Two-State Solution, mi dispiace sottolineare che si sbagliano. La Two-State Solution è morta e sepolta da ormai decenni. Credo inoltre che fosse un progetto destinato a fallire sul nascere perché lo Stato di Israele è stato sempre interessato ad espandersi ai danni dell'integrità territoriale palestinese. Questa strategia è diventata palese dopo gli accordi di Oslo, quando la West Bank è stata ufficialmente frammentata, oppure quando Israele ha formalmente annesso Gerusalemme, o ancora quando le alture del Golan sono state sottratte alla Siria e diventate parte integrante di Israele. Con l'annessione della Valle del Giordano non si fa altro che ribadire nuovamente questa strategia. L'aspetto più sorprendente, però, è che la comunità internazionale non sembra essere particolarmente interessata e non sembra disposta a fare nulla, nonostante si sia già superato il limite troppe volte. Questa è la voce di Yara Wari, è una analista per un think tank palestinese che si chiama Al-Shabaka. I due punti di vista, quello dei coloni israeliani e quello invece dell'intellettuale palestinese. Torno da Nello Del Gatto a Gerusalemme, con il quale abbiamo recuperato, credo e spero, un buon collegamento, una buona linea. Nello, ci stavi raccontando anche del dossier cinese, che è quello che forse potrebbe un po' sparigliare le carte. Addirittura qualche ascoltatore scrive: magari i cinesi, con tutti i soldi che possono mettere sul piatto, riusciranno a riportare la pace nella terra degli orfani. Così un ascoltatore omaggia la nostra scelta musicale, Orphan Land. Nello Del Gatto. Ma non sarei così sicura, anche perché insomma anche i cinesi perseguono degli interessi che non sono tanto geopolitici quanto più economici, vedi l'Africa, insomma la Palestina non è che può offrire chissà che cosa, invece Israele ovviamente può offrire parecchio, ecco perché ci sono interessi, uno sbocco sul Mediterraneo, appunto il porto, tutta l'industria, l'importante industria di ricerca che ha questo paese, insomma gli investimenti anche sulle tecnologie, sulle biotecnologie, è chiaro che ci sono molti più interessi. Sì. Rispetto a Pompeo ovviamente se n'è anche già andato e gli incontri che ha tenuto, vi faccio notare che lui da quando è scoppiato il coronavirus ha fatto una visita in Afghanistan e poi questa qui in Israele, proprio a sottolineare quanto è importante insomma per gli Stati Uniti questo luogo, anche perché non ci dimentichiamo che a novembre si vota negli Stati Uniti, che il voto degli ebrei in America conta parecchio, come pure delle comunità evangeliche, insomma, che hanno ovviamente molto interesse a sostenere queste battaglie in questo posto. Certo. La Cina può sbaragliare sicuramente, ma il problema è, come diceva giustamente la ricercatrice palestinese, i due stati non sono mai esistiti, la posizione alla fine, la sua posizione e quella del sindaco non erano così distanti come si potesse pensare, perché alla fine sono posizioni di realtà. Esattamente, è proprio così, è la realtà dei fatti che ormai si è cristallizzata negli anni, consolidata, tanto che anche da una certa fetta della parte palestinese avviene una presa di d'atto della situazione così com'è, quindi forse conviene anche fare un leggero cambiamento nell'approccio anche ideologico a questa questione, che è sicuramente interessantissima, dolorosissima. Ecco, però c'è un aspetto, Nello Del Gatto, ti faccio sentire a questo proposito la risposta di Oded Revivi a una domanda molto specifica. Proprio ieri davamo conto dell'uccisione di un soldato israeliano, del ferimento di vari palestinesi, è un momento particolarmente turbolento, ma quando mai non lo è stato? Non è che l'annessione delle colonie allo Stato di Israele potrebbe avere conseguenze negative proprio per la sicurezza dei tanti coloni e anche per esempio nella città di Oded Revivi? Sentite cosa dice. Regarding the issue of security of the people who live in Judea and Samaria, Per quanto riguarda il tema della sicurezza delle persone che vivono in Giudea e in Samaria, penso che gli arabi abbiano dimostrato di non avere bisogno di una scusa per cercare di colpire persone innocenti. E penso anche che la proposta messa sul piatto dall'accordo del presidente Trump rappresenti un'opzione estremamente interessante. Guarda la realtà in una prospettiva molto diversa rispetto a come è stato fatto fino ad ora. In questo accordo vedo un'opportunità, anche se non ci vedo la realizzazione di tutti i miei sogni, e penso che anche i palestinesi dovrebbero guardare all'accordo allo stesso modo. Un'opportunità che permetta al popolo di raggiungere un risultato, invece di usarlo come un pretesto per un ulteriore ciclo di attacchi e violenze. In passato, quando i palestinesi hanno compiuto attacchi, hanno ferito e ucciso civili e persone innocenti. Ma alla fine Israele è più forte, sa come proteggere i propri cittadini e il prezzo per proteggere i propri cittadini danneggerà sicuramente più i palestinesi che non la società israeliana. Questa è la voce di Oded Revivi, siamo però in collegamento da Gerusalemme con Nello Delgato, giornalista di Agi. Nello, ti restituisco un po' di polso, di pancia anche degli ascoltatori al 349-238-6666. Qualcuno anche con rabbia si scaglia contro questa scelta israeliana appoggiata dall'amministrazione statunitense. Come si fa a chiamare terrorista chi si opporrà con la forza a questo sopruso? Un altro ascoltatore: non riesco a capire come Israele possa fare quello che vuole senza che nessuno si opponga. E poi qualcun altro che dice: attenzione, perché c'è anche la possibilità, e chiedo a te conferma, Nello Delgato, che Mike Pompeo abbia voluto anche instaurare un filo sanitario con Tel Aviv e Gerusalemme, perché le ricerche israeliane sul Covid-19, sul possibile vaccino, potrebbero essere molto molto avanzate. È trapelato qualcosa in questo senso, Nello? Sulla questione del Covid, sì, nel senso che ovviamente Israele è all'avanguardia già da tempo sulla ricerca per un vaccino. Sì. Il più importante istituto, il Migal, già è avanzato sulla ricerca del vaccino e da pochi giorni hanno trovato anche gli anticorpi, quindi insomma stanno cominciando a sviluppare anche quest'altra forma. E quindi è chiaro che gli americani hanno tutto l'interesse. Per bilanciare un po', vorrei dire che purtroppo stamattina è stato ucciso in uno scontro un ragazzo, un quindicenne palestinese, colpito da un poliziotto, da un membro dell'esercito israeliano, perché purtroppo qua di guerra parliamo, insomma, certo. E questo ce lo dobbiamo sempre tenere a mente. E la situazione è difficile. Quello che diceva il sindaco mi faceva pensare, perché alla fine sono loro quelli che hanno creato più problemi e che si sono messi un po' più alla finestra. È anche possibile, guardate quello che sta emergendo in questi momenti, che Pompeo abbia anche chiesto di aspettare un attimo, perché in effetti questa questione dell'annessione, che dovrebbe avvenire dal primo di luglio, comunque votare il primo di luglio, Netanyahu nell'accordo di governo con Gantz, il governo che viene votato domani, è l'unica cosa che ha messo proprio come punto fermo e che tra l'altro sulla quale Gantz non potrà manco avere il diritto di veto. Ma poiché ovviamente c'è una grandissima oggi i partiti arabi si sono opposti moltissimo, hanno parlato insomma di martiri, perché di questo stiamo discutendo, è possibile che Pompeo abbia detto pure di cercare di fare le cose con calma, perché la mappatura probabilmente non sarà definita entro il primo di luglio, anche perché le questioni del coronavirus, e che abbia dato l'appoggio esclusivamente a questioni sanitarie. Quindi io starei un attimino a guardare quello che può succedere. Poi è chiaro, l'abbiamo detto prima, la realtà è questa: Oslo è stata una cosa imposta dall'alto e non voluta da nessuno, sia da una parte che dall'altra. L'Unione Europea si riunisce venerdì per eventualmente dare delle sanzioni a Israele per questa annessione. Il primo ministro palestinese ha chiesto subito di riconoscere la Palestina come Stato, proprio perché così possono avere un senso anche giuridico su tutte le cose. Si parla di dare il 30% a Israele e il 70% rimane a loro. Non sarà mai una soluzione approvata da nessuno, però potrebbe essere, come dicono molti, la soluzione di codere. sta di fatto che se non cambiano i politici che governano da una parte e dall'altra, difficilmente si potrà arrivare a una soluzione. E accolgo con piacere da un lato l'invito di Nello del Gatto, stiamo alla finestra, stiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Anche l'ultima coloritura mi sembra assolutamente da accogliere. Queste due classi politiche, sia quella palestinese che quella israeliana, vanno direttamente a conflitto, non c'è nulla da fare, non c'è modo di dirimere la questione. Grazie mille Nello del Gatto, giornalista di Agi da Gerusalemme. Noi velocissimi andiamo a sentire la borsa, poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa giornata in cui i grandi network internazionali, proprio mentre vi parlo, stanno trasmettendo le immagini dell'incontro tra Benjamin Netanyahu e Mike Pompeo. È venuto quello con Benny Gantz, ovviamente. Non sappiamo esattamente cosa si siano detti, probabilmente, come suggeriva Nello del Gatto da Gerusalemme, c'è l'ok, questo lo sappiamo, all'annessione di parte della Valle del Giordano, ma c'è anche probabilmente un invito a tirare un attimino il freno a mano. Ci sono altre urgenze in questo momento, tra cui sicuramente il Covid-19. Tanti ascoltatori puntano il dito verso la politica israeliana, che nelle parole di molti di voi al 349-238-6666 è aggressiva, muscolare, la comunità internazionale non fa nulla. Qualcun altro si lancia addirittura in slogan politici pro-palestinesi, Israele non esiste addirittura. Insomma, in sostanza, ancora una volta questo dossier altamente divisivo. Qualcun altro arriva a sostenere con grande frustrazione, evidentemente, e l'accogliamo anche noi con questo sentimento, che la soluzione è veramente, veramente difficile. Tanto che anche intellettuali, pensatori, politologi palestinesi iniziano ad abbracciare soluzioni diverse, non quella della cosiddetta two-state solution, cioè uno stato palestinese e uno stato israeliano, ma quella dell'unico stato. Sentite Yara Awari rispetto al suo punto di vista a questo concetto, alla one state solution, cioè soluzione di un unico stato. Uno Stato che comprende sia Israele che la Palestina esiste già, ma è uno Stato fondato su un sistema di apartheid, dove il regime israeliano mantiene il controllo sulle vite delle persone che vivono tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo. La questione ora è quindi capire come si vuole strutturare questo Stato che di fatto esiste già, che tipo di governo si vuole avere, dato che l'attuale regime di apartheid è inaccettabile. L'idea di avere un'unica entità, e di proposito non utilizzo l'espressione uno Stato perché non sono troppo legata al concetto di Stato-nazione, dicevo, avere un'unica entità basata sull'eguaglianza, sull'equità e sulla giustizia per tutti, dove vengano rispettati gli standard internazionali di moralità e correttezza, credo sia accettabile e desiderabile. Trovo molto curioso che questi standard siano considerati appropriati in molte realtà, ma siano negati ai palestinesi. Uno Stato esiste già, ora si tratta di capire come migliorare questa entità e superare la fase di apartheid. Questa è la voce di Yara Awari, politologa palestinese. Nel frattempo qualcuno ha dubbi sulla quella che è la colonna sonora che ci sta accompagnando in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Sono gli Orphaned Land, sono una band israeliana che fa metal, ma molto sincretico, se volete, e particolarmente ecumenico. Come raccontavo in un'altra puntata di Nessun Luogo Lontano, in un'intervista il leader della band, il cantante, dice: questione israelo-palestinese, datela in mano a noi metallari e la risolviamo in 3 giorni, nel senso che ci mettiamo a fare musica e al bando la politica. Ovviamente una semplificazione, per carità, però ci piacevano queste sonorità che in qualche modo restituiscono la complessità proprio del territorio che stiamo tentando di raccontare in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. A proposito di complessità, vi davamo notizia del fatto che a brevissimo Oded Revivi si troverà nel suo insediamento nel comune di cui è sindaco a dover gestire 7.000 nuove case. Sentite cosa dice. La notizia in merito alla costruzione di nuove case a Efrat riguarda una contesa giudiziaria che è durata 20 anni e che solo adesso si è risolta. Ora ci occuperemo della pianificazione. che dovrebbe far aumentare la popolazione di circa 7.000 persone. Alcune di queste sono persone che già vivono in città e vogliono una casa più grande. Altri invece vengono da altre città. E chiaramente potete immaginare che con decisioni di questo tipo non si faccia altro che aggiungere e buttare olio sul fuoco. Questa è la prima pagina, tutta dedicata alla questione israelo-palestinese. E adesso, Filippo Reggi, dammi una mano perché è ora di andare in Brasile. E in Brasile iniziamo raccontandovi quelli che sono i numeri. 881 morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel grande paese sudamericano. È la cifra più alta dall'inizio della pandemia. Bilancio totale delle vittime 12.400, nuovi contagi 9.258 che portano un totale di 177.589. Dopo gli ultimi inviti molto controversi, criticatissimi da parte di Jair Bolsonaro, già c'è qualche ascoltatore al 349-238-6666 che ci invita a dare un'occhiata in Brasile, altro che dittatura in Brasile, ce l'abbiamo qua in Italia, così sostiene un ascoltatore. Ci andremo in Brasile, gentile ascoltatore, lo faremo con la voce di un autorevole collega che vive lì a San Paolo e racconta e vive la quotidianità brasiliana da anni. Dicevo, dopo quell'invito alla grigliata di massa che aveva fatto qualche tempo fa Bolsonaro, è riapparso ultimamente indossando una mascherina, ma poche ore prima ne aveva fatta un'altra delle sue, permettetemi anche questo linguaggio forse un po' prosaico. È stato visto dove? In sella a una moto d'acqua sul lago Paranoá, Brasilia. Oh, a gente veio fazer o teu churrasco, né, cara? Ah, pega o bacalhau. Ai, que lindo, cara! E come sentite, il presidente si avvicina a questo motoscafo, scambia quattro chiacchiere, nessuno dei presenti ha nessun tipo di protezione, sono molto vicini, scambia appunto una chiacchierata con le persone a bordo e conclude con un commento sull'epidemia che recita testualmente: è una nevrosi, il 70% della popolazione prenderà il virus e io non posso farci nulla. Nel frattempo cresce la preoccupazione per la minimizzazione appunto da parte del presidente da più parti. Il capogruppo al Senato del Partito dei Lavoratori, Umberto Costa, chiede maggiore senso di responsabilità e maggiore chiarezza per il popolo. Vi faccio sentire la voce di Costa. Il popolo chiede chiarezza, chiede che non menta, che non nasconda né minimizzi la gravità del problema che stiamo vivendo del coronavirus. E poi lo stesso Costa chiede anche di smetterla con le strumentalizzazioni politiche, sentite. Il popolo è stanco delle diatribe, dei litigi, delle divisioni per fini politici ed elettorali. Questo era Umberto Costa, capogruppo al Senato del Partito dei Lavoratori. Poi c'è anche quell'altra frizione che vede da una parte Jair Bolsonaro, dall'altra i governatori. Vi faccio sentire ancora João Doria, che è il governatore di San Paolo. Sentite cosa dice. I governatori stanno agendo nel modo giusto per preservare le vite dei cittadini. E il presidente Bolsonaro sta facendo esattamente l'opposto, dicendo loro di uscire, di andare a lavorare. È assurdo. Abbiamo due virus da combattere, il coronavirus e il virus Bolsonaro. Parole pesanti, durissime, che ovviamente non saranno senza conseguenze. Fatemi salutare, dare il benvenuto a Nessun Luogo Lontano, il ben ritrovato Emiliano Guanella, giornalista da San Paolo. Emiliano, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Giampaolo e anche l'ascoltatore. Allora, ti lascio un attimino in attesa, andiamo a sentire le strade italiane e poi ci racconterai di questo braccio di ferro tra il presidente e alcuni governatori. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori nella seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Parliamo di Brasile, il braccio di ferro tra Bolsonaro e alcuni governatori come Witzel e Doria. Dove può portare questo braccio di ferro? Emiliano Gualella, collaboratore da San Paolo, che dici? Beh, direi che ormai la crisi, l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane, continua. È una crisi gravissima sanitaria, perché il Brasile è entrato già da tempo nei 10 paesi più colpiti dal virus, insomma 12.500 morti oggi, più di 180.000 contagiati, ma è soprattutto anche una crisi politica. Le due cose vanno a braccetto, perché pensate, da 2 mesi, il primo morte c'è stato in Brasile 2 mesi fa, il governo federale non ha fatto nemmeno una campagna di sensibilizzazione sul Covid, cioè sostanzialmente per Bolsonaro come se non esistesse, oppure se comunque non è, lui crede che non c'è bisogno di fare sensibilizzazioni, c'è bisogno soprattutto di continuare in questo braccio di ferro per pensare all'economia. I governatori degli stati più importanti hanno prolungato il lockdown fino al 31 maggio, sì. Ma nel frattempo Bolsonaro sembra mettere i bastoni per le ruote, pensate, ieri ha inserito il Ministero dell'Economia, su ordine del Presidente, ha inserito come attività essenziali le palestre, i barbieri e i parrucchieri. E il Ministro della Salute era in diretta, il nuovo Ministro della Salute del Governo, era in diretta in una conferenza stampa, un giornalista gli ha chiesto e il Ministro non sapeva di questa inclusione di queste attività. Quindi in sostanza Bolsonaro fa quello che vuole a livello federale, dopodiché i governatori dicono no, nel nostro Stato non autorizzeremo le palestre. Quindi sì, è una situazione molto paradossale, l'unico paese in Sud America dove non c'è sintonia su una cosa più importante, quando negli altri paesi c'è una sintonia fra tutte le istituzioni, ma anche per esempio in Argentina fra governo e opposizione. Sì. Tutti uniti contro il virus, in Brasile no. Nelle parole di Emiliano Guanella, quella che è una frattura politica, ma anche a questo punto istituzionale, governo federale contro i singoli governatori, incredibile questa doppio pesismo su attività così pericolose come i parrucchieri, le palestre. Poi stavo pensando, mi sto abbandonando a questa romanticheria sportiva, uno degli sport più diffusi, più celebrati in Brasile è il Brazilian Jiu-Jitsu, che è uno sport di contatto. Voglio sapere come si fa ad allenare senza fiatarsi addosso in uno sport come quello, chiusa parentesi, sportiva. Emiliano Guanella da San Paolo. Molti ascoltatori, alcuni ascoltatori, al 349-238-6666 puntano sui numeri dicendo ma alla fine, considerando l'altissima popolazione che in Brasile esiste, i numeri non sono poi così alti. C'è un enorme pezzo di iceberg che non viene assolutamente monitorato, secondo te, quindi i numeri sono molto distanti da quelli reali? Sicuramente c'è una sottostima dei numeri reali, perché per esempio Manaus, capitale dello stato d'Amazzonia, l'abbiamo già visto, abbiamo visto le immagini tremende di quelle fosse gigantesche, sì. Insomma, i numeri degli interventi e i numeri delle persone che purtroppo insomma muoiono sono molto superiori e molte sono cause sconosciute, quando in realtà si teme siano Covid. Ma bisogna considerare due cose. Uno, qua siamo un mese e mezzo indietro rispetto all'Italia, sì. Parlo in termini di curva dei contagi, siamo sì. in una curva completamente ascendente, siamo a un ritmo di 9-10.000 persone contagiate al giorno e di 700-800 morti al giorno, ma secondo uno studio dell'Università di San Paolo assieme alla Genomics, che l'abbiamo visto, è il centro che cura la statistica mondiale, il Brasile potrà essere il prossimo epicentro mondiale del coronavirus, e questo solamente per 3 fattori, lo dico velocissimamente, sì. Le sue dimensioni, è un paese enorme, 210 milioni di persone, il quinto paese più popoloso al mondo, il fatto che ha delle metropoli enormi con 5, 10, 15 milioni di abitanti, e l'abbiamo detto in precedenza, anche le favelas dove c'è una concentrazione di persone in pochissimo spazio, e poi questa mancanza di unione nelle politiche pubbliche tra governo federale, governatori, differenti stati di lotta al virus. Quindi se gli Stati Uniti oggi sono il paese al mondo dove sicuramente si muore di più per Covid e ci sono più contagiati, il Brasile per dimensioni, caratteristiche e strategia con la quale si sta affrontando il virus potrà nelle prossime settimane avere questo triste, tristissimo primato. Sì. La voce di Emiliano Gualella ci arriva da San Paolo, e proprio in questo esatto istante arriva un messaggio, e lo riconosco anche dal prefisso internazionale, di un ascoltatore brasiliano. Ho ascoltato Radio 24 tutto il giorno, sintetizza così la sua posizione: abbiamo due problemi qui, il Covid-19 e il nostro presidente. Un abbraccio a tutti, che ricambiavo ovviamente, così conclude l'ascoltatore. Abbiamo gli ultimi minuti e con Emiliano Gualella, lo ripeto, è collaboratore da San Paolo del Brasile, ci vive da parecchio tempo e conosce a fondo le dinamiche brasiliane. Sicuramente a Emiliano non è sfuggita quella che è un'altra pagina particolarmente complessa per il presidente Bolsonaro. C'è un'indagine sui figli che potrebbe condurre a uno scandalo di dimensioni enormi. Non che il Brasile non ci abbia abituati a colpi di scena in salsa giudiziaria, ma questo è notevole. Bolsonaro, Flavio, sarebbe accusato di collusione con i cartelli mafiosi di Rio, mentre Carlos è stato identificato come il membro di un'organizzazione che diffonde fake news. Ci aiuta a capire a che punto siamo con questo aspetto giudiziario? Siamo in una situazione molto grave per il presidente. Ricordiamo, settimana scorsa si è dimesso Sergio Moro, che era il ministro della giustizia, sì, simbolo dell'operazione Lava Jato, la mani pulite brasiliane, sicuramente uno diciamo dei ministri più importanti del governo, che aveva portato maggiore popolarità allo stesso governo Bolsonaro. Perché si è dimesso? Perché ha detto il presidente, io quando ho assunto l'incarico di ministro della giustizia ho detto che volevo avere piena autonomia sulle indagini di corruzione, sulla polizia federale, che in Brasile è una sorta di FBI, si occupa, sì, dei delitti più gravi e dei delitti soprattutto che coinvolgono i politici. Il presidente mi ha chiesto espressamente di cambiare il capo della Polizia Federale e soprattutto il capo della Polizia Federale a Rio de Janeiro, dove ci sono le indagini in corso che riguardano i figli del presidente. Ecco, si è saputo proprio ieri che c'è stata una riunione del Consiglio dei Ministri a fine aprile, nel quale Bolsonaro ha detto chiaramente davanti a tutti i ministri: io voglio cambiare il capo della Polizia Federale a Rio perché sta mettendo nei guai e sta importunando la mia famiglia. Tant'è che oggi ci sono, sì, molti meme su internet dicendo: Bolsonaro ha sempre detto di occuparsi della famiglia brasiliana, in realtà si vuole occupare della sua di famiglia. Questo è uno scandalo molto grosso, perché c'è un'interferenza diretta di un presidente che diceva che lottava contro la corruzione, quando invece sta cambiando il capo della polizia per evitare che le indagini vanno avanti. In effetti Moro si è dimesso e Bolsonaro subito ha cambiato il capo della polizia a Rio e ha messo, guarda caso potremmo dire, un amico proprio del figlio. Quindi il cerchio un po' si stringe, ci sono delle indagini molto pesanti, riguardano collusioni di uno dei figli di Bolsonaro, che era consigliere comunale a Rio, ma c'è anche l'indagine sulla morte della consigliere comunale Marieli Franco, perché uno dei diciamo organizzatori della banda di sicari viveva nello stesso condominio, si chiama qua in Brasile, però in realtà è un insieme di villette della famiglia Bolsonaro, e ci sono anche degli scandali di corruzione e dei collegamenti con i gruppi paramilitari, la milizia, sono gruppi di delinquenti che controllano certe favele di Rio. Quindi, sì, in qualche modo i figli di Bolsonaro sono oggetto, perlomeno, ovviamente il condizionale è d'obbligo, certo, di queste indagini, e il presidente in qualche modo vuole cambiare le persone che stanno portando avanti queste indagini. Insomma, una brutta storia, bisognerà vedere gli sviluppi, che ovviamente, trattandosi del Presidente della Repubblica, si inserisce nello scontro durissimo che c'è in Brasile fra il governo centrale e i governi statali e anche gli ex alleati a questo punto. Grazie mille Emiliano Gualella per essere stato con noi e averci restituito un nuovo episodio di questa lunga saga politico-sanitaria, a questo punto anche giudiziaria, che ci arriva dal Brasile. Buona giornata e buon lavoro Emiliano. Grazie a voi. Tanti i commenti che arrivano al 349-238-6666, io ho proprio 10 secondi, c'è qualcuno che vuole chiudere la discussione dicendo: ricordo a tutti che Bolsonaro è stato eletto, qualcun altro che accusa noi sinistri di diffondere fake news e non abbiamo nemmeno un giornalista non schierato, immagino che lei, gentile ascoltatore, intenda schierato pro Bolsonaro, ma qua non è essere pro e contro, è raccontare quello che sta accadendo ed è quello che facciamo ogni giorno. Così come il giorno, a un certo punto, chi sta di là dal vetro mi impone una cosa. Di ringraziare voi, e lo faccio sempre con grande piacere, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è domani, ore 16. Buona giornata da Giampaolo Musumeci.